vederci ancora è stato divertente. Ma allora incalza e poi fa un freddo cane. Ho un impegno urgente, devo rivedere come ho fatto ad immischiarmi in questa storia in bianco e nero. Finale un po' scadente, ci si mette anche la pioggia di questo vecchio film e con questi vecchi attori. Sferagliando se ne va anche l'ultimo tram. Quell'uomo frac mi ha detto non buttarti via così. E poi siamo rimasti lì. Lui aveva una bottiglia e io avevo da fumare. Dico che sarebbe di conforto saperti a casa che mi stai telefonando. Pensavo rincasando, morire per dormire, dormire e risvegliarsi con il mal di testa e poca fantasia. Il giorno è un pugno in pancia, del vino un po' annacquato. Se avessi più coraggio, se avessi più buon senso, saprei al momento giusto usare le parole. Ma ho il vento dentro al cuore, il solito rumore. Sbaglio le battute, non rispetto il mio copione. Sarà che a pensarci bene non ho mai capito cos'è in fondo poi l'amore. Pace e bene, saluti con affetto. Sarei felice se ti rincontrassi un giorno.